Benvenuti alla prima puntata, un numero zero di Alla Radice del Problema. Io sono Nilo del blog La Radice. In questo programma, che si spera andrà in onda su Libera Caffè ogni domenica e con la replica ovviamente sul mio podcast Radio LR, che potete trovare sul mio blog Network La Radice, parleremo un po' di tutto. Avrei voluto in effetti parlare di più cose in questa puntata d'esordio. Onestamente però la mia attenzione da un bel po' di tempo è focalizzata sul tema del bipolarismo italiano, un bipolarismo un po' alla matriciana, che adesso scricchiola come una sedia tarlata. È passato davvero poco tempo dalla fine della Prima Repubblica per dire che questo bipolarismo italiano sia già vecchio e decrepito. Però nella realtà dei fatti ci si può vedere una cosa ben diversa. Questo duopolio Unione CDL è scadente nei contenuti politici, ovviamente, nelle idee e nella coerenza. Solo poco tempo fa sui giornali appartenenti all'area riformista ho letto dei proclami pro-centrismo davvero poco condivisibili. La stessa guerra che ovviamente tra virgolette è scoppiata sul caso del proporzionale nella CDL ad opera dell'UDC fa pensare che questo sistema politico ricomincia a essere sopraffatto da idee retro e da nuove formazioni neocentriste che pretendono di portare l'Italia indietro nel tempo. La formazione di un terzo polo ad inizio estate, a dire il vero, sembrava ormai cosa fatta, con l'allontanamento nello stesso periodo dell'UDC dalla CDL e della Margherita da Prodi e dai compagni dell'Unione. Tuttavia si è rientrato presto nei ranghi e si era detto è un colpo di sole, una botta di calore, però nell'area in quest'ultimo periodo sembra imminente un cambiamento delle fazioni politiche in campo. Al proporzionale folliniano il Presidente del Consiglio risponde con uno sbarramento al 10% francamente elevato ed in pratica oltre l'UDC anche la Lega avrebbe dei problemi. In un colpo solo quindi due piccioni con una fava, indebolire l'UDC e fare in modo che la Lega dica sì al partito unitario. Letta così sembrerebbe anche una mossa intelligente, scaltra. Dubito però che i centristi stiano a guardare poi senza reagire. In realtà a sinistra le cose non stanno meglio e con la Margherita e l'UDI Euro sempre pronti a mettere il bastone tra le ruote a Prodiani e DS e mantenendo sempre le distanze da Rifondazione, dai Verdi e dai comunisti italiani. In altre parole, se anche i riformisti guardano al centro e se a destra i liberali sono tutti gli effetti stati inglobati nella massa Teocon, c'è davvero poco da stare allegri e soprattutto, guardando al futuro, c'è da stare ancora meno allegri in quanto si sa che andremo ad affrontare un'annata veramente difficile per le nostre tasche. Le ultime affermazioni dell'OCSE danno un PIL italiano al più 0,2% di crescita e non quindi al di sotto dello 0,6% come si era detto prima. Sicuramente una notizia da prendere per ottima, visto la scarsità di belle notizie, almeno sotto il profilo finanziario, e viste anche le beghe di palazzo con Banca Italia. In altre parole, quando ci sarà il voto, o a destra o a sinistra, le cose non cambieranno molto. Unica piccola differenza, in effetti, è che la CDL ha un programma, seppur vecchio e sicuramente perfettibile, mentre invece, ancora a destra, viste le ultime interviste a chi dovrebbe prendere il posto del Cavaliere, quelle pause emerse tra un punto di programma e un altro sono troppe. Sembravano quasi inventate sul momento. Sembravano, non aggiungo altro. Bene, io direi che il tempo a nostra disposizione è terminato. Ci sarà una prossima puntata, un numero uno. Quindi alla radice del problema, vi aspetta per il prossimo numero uno e si spera sia un numero uno speciale su Libera Caffè e sul Radio LR. Un saluto da Nilo e a presto.